Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune rituali e magari anche un po' noiose informazioni di servizio. La prima riguarda il sito radio24.it. Potete interloquire anche con i giornalisti. Chi ha un blog come il sottoscritto rende il compito più agevole. Il mio blog, lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri. Seconda informazione, quella che riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, se non fosse stato per Roberto Saviano, che alcuni giorni fa ha dedicato un lungo e dettagliato servizio al rapporto Ecomafia 2009-2010 di Legambiente, poco avremmo saputo del rapporto stesso. Ad onor del vero, il mio quotidiano, Il Sole 24 Ore, ha dedicato almeno un servizio. Forse un po' l'abitudine a questi temi. Forse che in Italia va tutto bene, quindi non bisogna mai disturbare i manovratori. Fatto sta che questo rapporto è passato un po' sotto silenzio. Io mantengo una promessa con voi, radioascoltatori. Non soltanto ne parliamo oggi, ma ne parlerò anche nel mio blog nei prossimi giorni. Quindi andrò a trovare e a cercare le cose più interessanti di questo rapporto, che come ogni anno è interessantissimo. Lanza, quando batté la notizia, diede questo dato: 20 miliardi il giro d'affari delle ecomafie, 78 reati al giorno. Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Sono stime, sono dati di fatto. Basta girare per le nostre strade e ce ne accorgiamo quanto, al di là della stima, sia vero che le organizzazioni criminali speculano incredibilmente sul business del cemento, il ciclo del cemento, del mattone, dei rifiuti e via dicendo. Allora, per parlarne, io ho innanzitutto chiamato oggi una vecchia conoscenza della radio, che è Antonio Pergolizzi, che è il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente. Buongiorno Pergolizzi. Buongiorno a voi. Allora, Pergolizzi, la mia è stata una provocazione, è stata una stupidaggine, e si esprima come meglio creda. È vero o non è vero che questo rapporto è stato un po', come dire, messo da parte? Sì, diciamo dalla carta stampata sicuramente. Soltanto il Sole 24 Ore, anche il Manifesto, bisogna aggiungere, hanno raccontato la presentazione del rapporto Ecomafia, soprattutto i numeri e le storie che ogni anno denunciano un fenomeno che non accenna assolutamente a diminuire di intensità nel nostro paese, da un capo all'altro dello stivale. Assolutamente. Ecco, ma vorrei cercare di capire con lei innanzitutto una cosa che a me francamente fa rabbrividire, sia che provenga dal centrodestra, sia che provenga dal centrosinistra. Chi segue la mia trasmissione o chi mi segue sul giornale da anni sa perfettamente che tiro palle di cannone incatenate in qualunque verso, in qualunque direzione, quindi non posso essere certamente accusato di fare sponda a qualcuno. Ecco, ma fatta questa premessa, è possibile mai in Italia che si torni a parlare di condono edilizio, Pergolizzi? Certo, è una delle tante cose che ci dispiace constatare. Nonostante la presenza il 4 giugno scorso delle massime autorità in materia, il presidente della commissione rifiuti Pecorella, sottosegretario agli interni Mantovano, procuratore nazionale Pietro Grasso, vicepresidente della commissione antimafia Fabio Granata, abbiano preso degli impegni sicuramente sul tenere alta la guardia dello Stato nel contrasto all'ecomafia, però nei fatti, insomma, le cose sono molto diverse. Assolutamente. A partire da questa legge, questo sulle intercettazioni telefoniche, che per quanto riguarda il delitto di traffico illecito di rifiuti, che è l'unico delitto che c'è ambientale nel nostro ordinamento, rischia veramente di vanificare il lavoro straordinario che da anni portano avanti le forze dell'ordine, i magistrati, nel contrasto a uno dei traffici più pericolosi per l'ambiente e la salute dei cittadini. Sì, diciamolo, anche più luridi, perché poi raccontiamo delle cose che la gente non sa, Antonio, o quantomeno le sa soltanto se si informa con, andando a cercare proprio con la lente di ingrandimento le notizie. Molto spesso questo traffico di rifiuti pericolosi poi prende le strade più impensate, che oggigiorno sono soprattutto la Cina, fino a ieri erano l'Africa. Questi rifiuti vengono trattati e tornano in Italia, in Europa, e quindi continuano ad inquinare. Tutti voi avrete letto alcuni giorni fa, non è un mistero, che una grande catena distributiva, alimentare, non so come chiamarla, non voglio fare nomi perché non mi va di fare pubblicità, ha ritirato dal mercato 12 milioni di pezzi di bicchieri che venivano distribuiti al cadmio. Allora, il problema dei rifiuti non è un problema che tocca gli altri, tocca tutti, anche i padri di famiglia, perché i bicchieri al cadmio, voglio dire, ci bevevano i ragazzini, i bambini, o sbaglio? Assolutamente, teniamo in considerazione che la stragrande maggioranza di smaltimenti illegali avviene sui terreni agricoli, su prodotti che finiscono sulle nostre tavole, non soltanto in Campania ma anche in Trentino e Lombardia. Ricordiamoci le vicende che abbiamo raccontato anche in questo rapporto Ecomafia, di rifiuti tossici smaltiti su alcuni terreni destinati alla coltivazione delle mele. Certo. Ma infatti poi ne parleremo domani con i nostri ospiti proprio di Legambiente Lazio e di Legambiente Lombardia. Pergolizzi, vorrei farle un'altra domanda. Vale, io noto una sorta di ipocrisia nel vostro rapporto, ma voglio essere chiaro, non per colpa vostra, no, perché voi siete bravissimi e sai quanto vi seguo, ma l'ipocrisia è degli amministratori locali, no? Che fanno delle cose straordinarie, sono sempre bravi a raccontare ciò che fanno. Allora, ovviamente la mia non è una denuncia contro tutti gli amministratori locali, ma vorrei chiedere qual è la sua sensazione sul territorio, vale a dire, effettivamente il loro controllo c'è o è pure una pura, come dire, lavata di faccia, una romanella, come si direbbe a Roma, e dunque lo fanno soltanto per farsi belli, ma in realtà loro, che sono le prime sentinelle, i primi vigili sul territorio, se ne fregano tre quarti, perché poi tanto sanno che c'è qualcun altro che fa sempre piovere un condono dall'alto. Sì, l'impressione è esattamente questa. La politica e i segnali che lancia sono assolutamente questi, in maniera inequivocabile. Anche in campagna, insomma, chi ha avuto più voti lei ha raccolti, anche garantendo prossimi condoni edilizi, anche quanto ha fatto, cioè, tutti i candidati che sono stati ecco, nella campagna elettorale in Campania, ecco, ma perché non io solo. Ho letto paginate sul Mattino di Napoli, no, che richiamavano questa promessa vera, presunta. Poi io non posso esprimermi, non perché non abbia coraggio, ma perché non ho gli elementi di fatto e di diritto. Tutti riportavano il nome della Mara Carfagna, no? Esattamente. Ecco, ma credo che dall'altra parte, nel cosiddetto votata. Esatto, ma non credo che nel centrosinistra sarebbero stati molto più, come dire, propensi a non raccogliere voti anche in questo modo, perché poi alla fine il consenso si crea su questo. Sì, ma infatti non senza fare differenze di destra e sinistra, il problema è che viene lasciato il contrasto a questi fenomeni soltanto alle forze dell'ordine, mentre continuano a essere scarsi i controlli amministrativi e molto spesso si lascia mano libera. Ecco, ma i cittadini... prego. No, anche perché, diciamolo, agli amministratori che sono sottoposti poi al giudizio degli elettori, molto spesso fa più comodo chiudere gli occhi. Certo, questo è certo. Ecco, ma se i cittadini, quei pochi, molti, non so quanti siano, che si sentono, come spesso amo ripetere io, anelli di una catena di legalità, volessero dare una mano a Legambiente, non dal punto di vista economico, voglio dire, ma volessero aiutarvi, come possono fare? Anche semplicemente facendo circolare il vostro rapporto nelle scuole. Dia qualche informazione di servizio, qualche speranza di sana lettura, piuttosto meglio perdere due minuti, no, che poi non sono persi, nel leggere qualche pagina nel vostro rapporto, piuttosto che vedere due chiappe nude della pupa al secchione e qualche cervello mandato all'ammasso. Prego. Sì, sarebbe fondamentale che tutte le scuole fossero dotate di un rapporto Ecomafia e che comunque la legalità, i percorsi di legalità fossero uno degli strumenti attraverso i quali la scuola forma i cittadini. Assolutamente. Allora, se qualcuno fosse interessato, si rivolge a chi? Ma può rivolgersi assolutamente al nostro ufficio, quindi all'ufficio ambiente e legalità di Legambiente. Bene, diamo un indirizzo, un sito, ma certo. 06 86 26 8396, oppure le ultime due cifre 377 risponde o Antonio Francesco, che per ogni, diciamo, segnalazione bravo bene, può rispondere e comunque dar seguito. Bene, questa è la trasparenza che spesso la pubblica amministrazione non assicura invece. Allora, per chi fosse interessato, sappiate che questa è l'ultima settimana in cui resta in edicola il mio libro Economia Criminale, è solo in edicola con il Sole 24 Ore. Ne troverete moltissime di queste storie di traffici illeciti. Per chi fosse interessato, quindi, può recarsi in edicola e acquistarlo. Bene, io ringrazio il nostro ospite, dico grazie a Valeria Coffaro e a Laura Fagini in studio e a Carmelo Lauricella in regia. Grazie per l'ascolto e buona giornata.